140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. Musica, cinema e televisione nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Sony Music, Milano. Nicola Piovani presenta un nuovo album, per la prima volta tutto di canzoni. Si chiama Cantabile, per lui davvero qualcosa di nuovo. Nuovo nel senso che le canzoni le ho scritte tante volte, ma sempre per delle occasioni, sempre per dei progetti altrui, perché servivano in un film, servivano nella drammaturgia di una commedia teatrale. Ho scritto tanti anni fa la canzone d'ingresso di Liolà, di Pirandello, avevo scritto la canzone nel film Il Mal di Luna, canzoni per sigle televisive. Poi, quando ero molto praticamente debuttante ai miei primi lavori, avevo scritto delle canzoni per Fabrizio De André in due album, però erano dei suoi progetti, entravo in progetti altrui. A un certo punto mi è venuta la voglia, grazie anche allo stimolo datomi dalla Sony, che ha insistito molto perché io mettessi il naso in questa zona, di provare a compendiare una mia idea di canzoni. Infatti le canzoni di questo disco sono di generi diversi, molto diverse l'uno dall'altro, sono alcune delle tante facce che la canzone, genere meraviglioso musicale, può assumere. Scende, il buio spande, e l'alabai, e l'alabai, anche stanotte tu non dormirai. Vola nei tuoi sogni fra i sipari della follia, dietro la magia dei desideri che non hai mai. E anche tu la regina della notte bacerai. La differenza tra i generi, la musica colta, la musica popolare, è ancora importante nel momento in cui una persona si avvicina a una forma che è considerata più popolare come quella della canzone? Tutto questo si riferisce a una visione schematica che poteva avere un senso fino alla metà del secolo scorso. La musica, proprio come abitudini civili, sociali, designava dei ceti sociali. Tu potevi sapere uno a che classe sociale apparteneva o a quale ceto sociale apparteneva in base a cosa ascoltava. Io sono cresciuto in un quartiere popolare, il Trionfale di Roma, e lì si ascoltavano solo musica che chiamavamo leggera, solo canzonette, solo Sanremo, non si ascoltava Mozart, Ravel, Beethoven. Però, per esempio, c'erano quelli del secondo piano che erano un pochino più coltivati di noi, avevano una tradizione più colta, i miei genitori non avevano studiato, non avevano fatto le scuole, invece questi erano più coltivati, e allora su un vecchio grammofono ascoltavano l'opera. Già l'opera designava un confine sociale, un perimetro sociale già diverso. Non parliamo poi della musica da camera, che era riservata a quella classe non necessariamente ricca ma colta, presidi di scuola, insegnanti. Poi c'era addirittura quella borghesia raffinata, un po' snob, che ascoltava, cosa incredibile nell'Italia del dopoguerra, la musica jazz. Ora, queste definizioni hanno meno senso perché non hanno più senso quegli steccati. È tutto rimescolato. Io ci sono delle persone che insospettabilmente sono appassionati di Wagner o di Mahler. Ci sono ragazzi che nel loro iPod, grazie a Dio, hanno Stravinsky, Duke Ellington, i Radiohead, i Muse. Il genere alto o basso lo fa la qualità di chi scrive. aveti e d'argento e voi l'oro portati dalla luce spanni e dalla luce spanni la dati. Il compositore a un certo punto deve avere che fare con degli esecutori e con degli interpreti. Nella canzone l'interprete anche qui ha un ruolo un po' particolare e uno status un po' particolare. Lei come ha scelto questi collaboratori, queste voci a cui affidare le sue canzoni? Beh, nella canzone le voci hanno più importanza che negli altri generi musicali. Mi spiego, se io scrivo una sinfonia ho bisogno di controllare tutti i colori e i timbri e quindi scrivo per oboe e immagino come l'oboe. Ovviamente è diverso l'oboe che suona al San Carlo e l'oboe che suona al Carlo Felice, però sono due timbri che si somigliano, si controllano e in qualche modo, anche se scrivo per tenore, baritono o basso, saranno diversi un tenore dall'altro, però sappiamo che timbro è. Nella canzone la voce che canta è sia uno strumento che fa delle note musicali e entra in sintesi con l'orchestra e gli strumenti dell'orchestra, ma è anche una persona. La voce di un cantante pop denota una persona. Se noi ascoltiamo la voce di De Gregori o di Jovanotti o di Morandi, sentiamo che dietro c'è una persona che non è automaticamente sostituibile. Se quella canzone che canta Morandi poi la va a cantare, mettiamo Paolo Conte, è la stessa canzone, ma anche no, perché si ha rapporto con una persona nella canzone, con una voce personalizzata. E quindi queste 12 voci che cantano nel mio disco, sì, certo le conoscevo, quelle che conoscevo meno ho imparato a conoscere, le ho studiate, però insomma le conoscevo diciamo tutte. Poi a questo punto ha anche fatto registrare a Benigni questa versione che insomma avevamo già potuto orecchiare, ma finalmente c'è su un supporto? Beh, non c'era in italiano, non è mai stata registrata in italiano, non c'era un testo italiano. E Benigni generosamente ha scritto il testo italiano per pubblicarla in questo album, proprio per l'occasione, ha ultimato un testo che aveva vagamente iniziato e con altrettanta generosità, quando abbiamo letto il testo definitivo, abbiamo timbrato stampa, questo è il testo definitivo che non si cambia, diciamo quando l'abbiamo licenziato, e lui mi ha anche detto: se poi non trovi uno che te la canta, te la canto io. Vai, sorridi amore, vai. Hai negli occhi miei. Vai con questa canzonetta, metti il cuore in bicicletta, il mondo aspetta, il tuo sorriso vai. È blu, il cielo è ancora blu. E tu coloralo di più. Testo, insomma, mi viene in mente nella musica leggera la coppia parole e musica, Mogol Battisti, Lennon McCartney, sono coppie inossidabili. Come si trova la misura su un testo e su un autore di un testo? Dipende da chi è il musicista e chi è il poeta. Io per tanti anni ho collaborato insieme e a volte continuo a collaborare a Vincenzo Cerami, che ha sia la penna dello scrittore, del poeta, che ha scritto poemi, poesie, adesso ha pubblicato un bellissimo libro di poesie, ma anche la duttilità dello sceneggiatore, anche l'arte di modificare, di cancellare quello che ha appena scritto per farlo entrare dentro una terzina, dentro un tempo dispari, e costruire così artigianalmente insieme una canzone che è anche un pezzo artigianale, che richiede anche la magnifica attitudine dei falegnami. Lei ama sempre la canzone di La vita è bella, perché a volte le canzoni sono talmente eseguite, talmente sentite da altri che se ne perde un po' la paternità. Beh, certo, quando una cosa la cantano in tanti è tua, ma anche non più, perché è pure di chi la canta, però certo la amo sempre. Ovviamente all'inizio magari c'è un po' di risentimento, perché dici: come, ho scritto altre cose che sono belle come questa, e perché tutti... Poi però dopo ti rassegni, anzi sei contento. Dobbiamo sempre essere contenti quando c'è tante persone che si dedicano a una cosa che tu hai scritto. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa, cinema e televisione, nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Piazza San Cristoforo, Milano. Ultime battute per Film Factory Italia di Di Saronno, Chuck e Officine. Gli aspiranti filmmaker girano corti con grandi protagonisti. Paolo Rossi. Sono 2 anni che faccio laboratori e insegno recitazione ai ragazzi, per cui quando mi è arrivata questa proposta l'ho accettata ad acchito subito, perché mi sembrava perfettamente in linea con quello che sto facendo negli ultimi tempi. Credo che sia un compito, un dovere, soprattutto se sei portato. Io non pensavo di essere portato a insegnare, invece pare di sì. Se fossi furbo aprirei un'agenzia, ma non sono furbo. Quali sono gli insegnamenti che dai ai ragazzi, sia dal punto di vista pratico del mestiere dell'attore, sia dal punto di vista così forse più esistenziale? Ma guarda, la cosa fondamentale in questo mestiere è imparare a rubare. Imparare a rubare, rubare in questo mestiere è una cosa buona, che non vuol dire copiare. Rubare può portarti a una soluzione a volte anche geniale, anche se il confine tra il capolavoro e la cagata è labilissimo. Nella vita in generale? No, anche nell'arte. È proprio leggero, leggero. Invece copiare è abbastanza da mediocri. Rubare vuol dire prendi una cosa di uno e la fai tua. Però è reciproca la cosa, perché tu rubi, io mi faccio rubare, ma rubo anche. Io credo che quei laboratori tecnicamente sono anche migliorati. Oh, chi è? Non dovevo cantare al matrimonio? È uguale. In fondo alla strada. Chi è che c'è? Ci sono 3 ladroni. Oh, vabbè. Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava, ma sono tutti di mia moglie. Il secondo sudava, tra un ballo, una bionda e un panino. Il terzo spiegava, ma cosa spiegava? La rava e la fava. Che storia è? E in fondo la storia, no, spiegamelo, è sempre la stessa. Cosa te l'ho detto io? C'è uno che grida, che grida e fa i versi da quella finestra. Adesso tocca alla tua generazione portare avanti la tradizione di alcuni maestri che o sono invecchiati o purtroppo in questo periodo se ne sono andati. Dovete raccogliere un testimone molto importante. Guarda, quando è morto Enzo non ho dormito per 4 notti, perché al di là del dolore per l'amico, il maestro, c'era anche il fatto che c'erano delle persone che non solo ti insegnavano il mestiere, ma ti davano anche un punto di vista, nel suo caso visionario, del futuro, che ti dava la barra, per dirla in navigazione. Adesso tocca a noi e vediamo. Non ho dormito per un po' di notti, infatti. Beh, un bel giorno stavi lavorando, felice, finalmente in serenità. E mentre ti dicevo, ma guarda che bella questa terra, che l'altro giorno gli era così fertile, che golassa la zappa, mi sono dimenticato la zappa sulla terra, sono da casa e il giorno dopo sono tornato, la zappa era fiorita! Oddio, che terra fertile, che moglie bella, che fiori deliziosi, sono proprio contento, che gira la testa. Che ho visto arrivare il paron, è il paron della valle, sul suo cavallo, insieme ai suoi sgheri. Vai, con te lì, Vilan. E tu state qui? Eh? Sì? È tua? Intanto tu hai portato Mister Buffo anche a Londra, quindi anche qua devi, hai deciso di portare avanti una tradizione che sembrava quasi intoccabile. Ma guarda, a Londra è stato facile perché il pubblico era l'80% italiani, perché più adesso devo andare a Bruxelles, anche lì mi hanno detto non preoccuparti, sono tutti italiani emigrati. E, mentre invece sono stato 2 settimane in Cina e lì invece, no, c'erano anche lì di Siena, della banca, che erano stati messi, ma erano l'1%, il resto erano cinesi. Però ho usato una tecnica cinematografica, ho recitato in playback, cioè doppiato con un cinese, è andata bene, lì c'è pubblico comunque, tanto pubblico. Mentre aspettiamo i ragazzi di Film Factory, siamo in un posto bellissimo di Milano, siamo in uno degli angoli più belli del Naviglio. Cosa rappresenta per te Milano? E dicevi che poi questo luogo rappresenta qualcosa di bello per te mentre eri di sotto i baffi? No, perché mi sono sposato qui di fronte. No, bello, sì, ma poi ci siamo separati, ma poi forse viene perché vuole vedermi e vuol vedere anche lei forse il posto che non vediamo da tanto. Siamo sempre in ottimi rapporti. E Milano, al di là di questa notazione buffa, però insomma bella. Milano è molto difficile descrivere Milano, è come uno, parlo da uomo qui, da maschio magari, è come una donna brutta che però dici a me piace e non riesci a spiegarlo agli amici, dici a me piace, poi dici, vai via e poi torni, io sono andato via, torno. Io adesso vivo sull'asse Torino-Milano-Trieste, non perché c'è solo un treno che le congiunge, ma perché lì ci sono le occasioni di lavoro adesso per me. Lo diciamo anche a questi ragazzi allora? No, devono trovare un posto, sicuramente stiamo vivendo un periodo in cui devono cambiare le modalità in cui si attua un mestiere. E quindi bisogna ascoltare quelli più vecchi di me e quelli più giovani, mancando i fari, quelli che io chiamavo i fari, Gaber, Iannacci, Streller, cioè, allora bisogna star per strada. Adesso sono per strada, sono capitato dove c'ero già stato, va bene. La Segheria, Milano. Famosa nel mondo con la star Gordon Ramsay, ora anche in Italia su Fox Life, Cucine da Incubo. Il direttore di Fox Channels Italy, Sara D'Amico. Allora, la novità principale è lo chef Cannavacciuolo, ovviamente. Personaggio incredibile, frutto di una lunghissima ricerca, perché ovviamente dovevamo trovare il sostituto di Gordon Ramsay e sapevamo che non sarebbe stato facile. Dopo una lunga ricerca lo abbiamo trovato. Noi di Fox siamo molto orgogliosi di questo, l'abbiamo scovato sulla codorta. È un personaggio incredibile perché è estremamente autorevole ed è anche molto molto molto umano. La più grande differenza con il format americano è che c'è una componente di relazioni umane con i proprietari di questi ristoranti e con il personale, con i camerieri, con gli chef, estremamente caldo, estremamente basato sulle relazioni e sulla capacità di trasferire tutto quello che Cannavacciuolo sa rispetto ai ristoranti. Così avete trovato Cannavacciuolo, ma invece le cucine da incubo come le avete trovate? Le cucine da incubo è stato un incubo perché in Italia c'è molto la concezione di fare bella figura e quindi il terrore di rovinare in qualche modo il buon nome molto spesso di una famiglia che gestisce il ristorante da tantissimi anni, e non c'è quel pragmatismo, no, legato al business che puoi trovare negli altri paesi anglosassoni. È stato molto difficile ma abbiamo fatto casting, abbiamo contattato più di 300 ristoranti per alla fine trovare una rosa di 10. La maggior parte di questi ristoranti, quasi tutti, hanno soprattutto un problema di gestione, perché comunque in Italia, essendo tutti un po' cuochi, un po'... pensiamo di avere tutti una grossa tradizione culturale legata alla cucina, per cui pensiamo tutti di poterlo fare, in realtà manca totalmente l'aspetto gestionale, che invece Cannavacciuolo, in cui Cannavacciuolo eccelle, perché è proprietario dei suoi ristoranti, per cui prima di essere uno chef è un imprenditore, e questa è una caratteristica fondamentale sua. Poi lui ha avuto questa capacità incredibile di trovare, cambiare completamente i menù di tutti questi ristoranti, che molto spesso avevano troppi piatti, cose che non c'entravano assolutamente nulla con il territorio, quindi ad ogni ristorante ha praticamente riprogettato completamente il menù, adattandolo alle loro esigenze, al territorio, e gli ha insegnato a gestire la loro azienda, che è la cosa più importante. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale 140 caratteri R24, ma anche il mio account @ Marta Cagnola. 140 caratteri torna ogni domenica alle 8:30 e alle 19:30.